Allora, in questa lezione di Gemara, non so se avete seguito durante circa la scorsa settimana la Torah del giorno, dove abbiamo approfondito un po' la struttura e un po' la storia della Mishnah e di come è appunto strutturata e con quale scopo. Se avrete modo di leggerlo, vi aiuterà anche a capire quello che stiamo studiando qui è la maniera in Fino cui, all'ultima, sì. sì, la maniera in cui affrontiamo. Vorremmo fare un attimino un punto della situazione, di quello che stiamo studiando in questo secondo capitolo di Berachot, nella Mishnah, ma in particolare nella Gemara. Per capire bene quello che stiamo studiando, bisogna un pochino capire cosa vogliamo ottenere attraverso questo studio. Cioè, abbiamo studiato già diversi punti, abbiamo visto alcuni avanti e indietro nel dibattito talmudico, però è sempre bene chiarire, a volte il Talmud, quasi sempre quando c'è un dibattito nel Talmud, si parla solo della questione tecnica. E lo studente del Talmud deve, con l'aiuto dei commentatori, approfondire per capire la vera motivazione di questo dibattito, cioè che cosa stanno cercando di fare attraverso queste tecniche, dove stanno cercando di arrivare, da dove stanno partendo, eccetera. Allora, in generale, in questo secondo capitolo di Berachot, stiamo affrontando alcuni problemi che riguardano la mitzvah della lettura dello Shema. E questo ovviamente l'abbiamo visto. Non ognuno di questi problemi è legato all'altro, vuol dire sono problemi a volte diversi, distinti l'uno dall'altro, ma tutti legati allo Shema. E tutti quasi legati anche al seguente punto. La domanda centrale che ci stiamo chiedendo effettivamente, prima ancora di avere aperto la prima pagina, prima ancora di aver letto la prima frase della Mishnah con cui si apre il Perek, il capitolo, la domanda è: fino a che punto vige l'obbligo della lettura dello Shema? E questa domanda ha molti aspetti. Nel primo capitolo di Berachot, che non abbiamo studiato in questo corso, lì abbiamo affrontato le questioni più chiare riguardanti la lettura dello Shema. Cioè già sappiamo qual è la lettura dello Shema, e lì abbiamo affrontato quali sono i tempi esatti della lettura dello Shema. E quali sono le, diciamo, qual è la cornice nella quale si legge lo Shema? Abbiamo parlato delle berachot dello Shema, eccetera. Però in questo secondo capitolo vogliamo chiarire aspetti che in teoria sono forse meno importanti di secondo piano rispetto a quelli del primo, perché il primo ci dice quando noi dobbiamo leggere lo Shema, nel senso che se non lo facciamo entro quel tempo non abbiamo proprio fatto la mitzvah della lettura dello Shema, eccetera. Qui diamo per scontato che leggiamo lo Shema e lo leggiamo nel tempo giusto, però ci sono altri problemi, diciamo di importanza grande ma secondaria rispetto ai primi, che dobbiamo chiarire. Quello che, appunto, come dicevo, quello che lo Shema è, lo sappiamo. La domanda è cosa succede quando non riusciamo a tenere necessariamente quella struttura? Appunto, allora dobbiamo capire qual è l'importanza di ogni pezzo dello Shema rispetto anche agli altri brani, se c'è uno più importante di un altro. Cosa che ha degli risvolti poi sulla halakha nel caso in cui possiamo solo fare una parte o ci troviamo in altre condizioni che adesso vediamo, e quanto appunto è importante ognuno di questi dettagli. Quando è scritto E abbiamo letto stamattina sullo Shema, vedi Barta Bam, Beshivtecha, Bevetecha, Ovelechtecha, Vaderech, Uveshachbecha, Vkumecha. Cioè che noi recitiamo queste parole quando siamo a casa, quando siamo per strada, quando ci alziamo e quando ci corichiamo. Ordine contrario, ci corichiamo e ci alziamo. Aprono, queste parole aprono una domanda, un quesito, un dubbio. Qual è il dubbio? Cosa succede quando mancano queste condizioni? Quando le condizioni della vita non ci, appunto come dicevo, non ci consentono, forse non ci facilitano la lettura dello Shema in questa maniera più ideale? Qual è la cosa più importante che respinge magari un'altra? Possono essere forse tre problematiche centrali che la persona potrebbe affrontare e dovrebbe rispondere a questa domanda. Un problema può essere direttamente dalla persona stessa, vuol dire per un problema fisico o spirituale che non lo aiuta a mettere in atto la mitzvah, oppure potrebbe esserci disturbi da altre persone esterne alla persona stessa, da altre persone o da condizioni esterne. Oppure potrebbero essere cambiamenti o situazioni, condizioni che cambiano che derivano dalla quotidianità delle cose che accadono nella vita della persona, nella cadenza quotidiana. E per rispondere a questi problemi bisogna, come dicevo, capire bene di cosa stiamo parlando quando parliamo dello Shema e dei suoi vari brani e dei suoi vari aspetti. Il primo aspetto per importanza, non necessariamente per ordine, è di chiarire se effettivamente la mitzvah della lettura dello Shema è una mitzvah biblicamente comandata, che ogni giorno bisogna leggere lo Shema, oppure questa è un'indicazione de Rabbanan, cioè rabbinica. L'obbligo sulla persona è uguale, ma cambierebbe il modo di affrontare nel caso di problema. Perché ovviamente una mitzvah che è de Rabbanan è respinta davanti a determinate situazioni o altre mitzvot che a loro volta sono della Torah biblicamente volute, che si chiama Deoraita nel linguaggio della Gemara, che letteralmente vuol dire della Torah in aramaico. Questo è il primo problema, primo dubbio a livello di importanza. Inoltre bisogna chiarire quando, per esempio, la Torah dice allevavecha, che queste parole siano poste sul tuo cuore, cosa che non vediamo in altre cose della Torah, solo qui nello Shema, di metterlo sul cuore. Dove si applica? Cioè, se la Torah sta con questo alludendo che qui serve un ulteriore tipo di intenzione del cuore, questa è la domanda, oppure forse il contrario, forse la Torah sta dicendo che qui non serve recitarlo, basta pensarlo. Allevavecha, non è necessario pronunciare queste parole, recitarle, è sufficiente sentirle e pensarle. Allora può essere un estremo o l'altro, perché questi due punti di vista sono opposti in realtà. Uno rende più rigorosa la mitzvah e l'altra la rende molto più facilitante. Allora queste sono cose da chiarire. Anche quando diciamo Beshivtecha, Bevetecha, Ovelechtecha Vaderech, quando stai a casa e quando vai per strada, no? E quando viaggi. Allora cosa vuol dire? Che nel mentre ci stiamo occupando di altre cose, quando, cioè qualsiasi cosa stessi facendo, se stai a casa o stai viaggiando, devi leggere lo Shema. Cosa vuol dire? Vuol dire che dentro all'interno delle attività che stiamo svolgendo dobbiamo in qualche modo infilare pure lo Shema, in qualsiasi condizione. Oppure oppure al contrario, Nonostante stessimo per viaggio, per strada o per casa o facendo altre cose, dobbiamo fermare tutto e creare un vuoto nel tempo per compiere questa mitzvah. Di nuovo, può essere visto in due maniere che non vanno d'accordo l'una con l'altra. Quindi questi problemi poi si applicano a situazioni specifiche che vedremo affrontate nel nostro capitolo, cioè la situazione di una persona che è malata, o una persona che è debole, o una persona che è sorda, abbiamo parlato di sentire quello che diciamo, no? O di un operaio che sta lavorando nel momento in cui c'è l'obbligo di recitare lo Shema, una persona che cammina per strada, in quel momento come si deve comportare. Tutte le risposte che noi vedremo, che saranno offerte per questi quesiti, deriveranno dal cuore della questione su come si definisce questa mitzvah e le sue varie i suoi vari brani, cioè i vari aspetti di questa mitzvah, che potrebbe essere diverso l'uno dall'altro, come abbiamo anche già visto. E quindi in realtà la domanda centrale di questo capitolo è: cosa è lo Shema? Nel primo capitolo abbiamo parlato del quando e del come. In questo capitolo, in realtà, per capire, per rispondere alle problematiche che abbiamo, dobbiamo entrare nel cosa. Che cosa è? Alachicamente definibile la definizione di cosa è lo Shema. E su questo costruiamo le varie problematiche per appunto arrivare a qualche conclusione. Ora, nello specifico, nel nostro capitolo, vogliamo andare un attimino alla ultima parte della prima facciata, il 13A, dove c'è scritto Tonura Banan, credo siano le ultime due righe. Ok. Dove qui si affronterà l'aspetto intenzione dello Shema. Tanura Banan. Suggerirei, se non oggi, almeno per la prossima volta, per meglio non solamente approfondire, ma per meglio conoscere il metodo del Talmud, per meglio non solamente, diciamo, assistere alla lezione e capire tutto, ma poi per anche acquisire gli strumenti di altri studi di Talmud che uno potrà fare nel corso della vita, io suggerirei, che molti di voi già fanno, di segnare sia il significato di parole. Certo, non è una lezione di lingua, però ci sono molte parole che io cercherò di fare presente, che ricorrono nel linguaggio talmudico. Alcune di queste sono parole di base assoluta, che è importantissimo riconoscerle, perché ci aiutano a capire la struttura della pagina, cioè se è una domanda, una risposta, una prova, un suggerimento, un'affermazione. Spesso queste cose sono precedute da una o due parole che ci danno queste indicazioni. Quindi credo sia importante, possa essere di molto aiuto se si dedicasse a un quaderno, a un foglio, quello che sia, anche sul foglio stesso si possono segnare o traduzioni o concetti, eccetera. Allora, vediamo cosa dice la Gemara. La Gemara torna adesso a parlare della Kavanah, cioè dell'intenzione che è necessaria durante la lettura dello Shema. E se prima nella Gemara, subito dopo la Mishnah, quando si parlava di Kavanah, si parlava dell'intenzione necessaria per uscire d'obbligo della mitzvah, cioè la Kavanah era quale intenzione? Intenzione di far questa cosa per una mitzvah, cioè parlavamo di uno che legge, ma non legge per motivi rituali, legge per motivi tecnici, sta aggiustando un sefer. Perché questo esempio? Per dire, è necessaria la intenzione di fare quell'atto perché è una mitzvah e voglio uscire d'obbligo questa mitzvah. Questa era la prima discussione sul concetto di Kavanah. Ora, quando parliamo di Kavanah, stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando della Kavanah, cioè della comprensione di ciò che si sta dicendo. Le parole che reciti devi poter capirle, quindi Kavanah, quindi avere in mente intenzione, cioè il senso di quello che stai dicendo, oppure non è necessario. Quindi è un'altra Kavanah, è la stessa parola, ma è una Kavanah diversa. Allora la Gemara dice, e qui abbiamo due parole importantissime da ricordare, Tanu Rabbanan. Cosa vuol dire Tanu Rabbanan? Insegnano i nostri maestri una baraita. I nostri maestri insegnarono in una baraita. Perché queste parole sono così importanti? Perché la Mishnah è la fonte più importante in cui i Tanaim, cioè i maestri della Mishnah, espongono le loro opinioni e i loro insegnamenti, ma la Mishnah è molto molto concisa, molto breve. E la Mishnah include l'essenziale, ma non tutto. Molti insegnamenti degli stessi Tanaim, quindi maestri della Mishnah, sono incluse in altre opere che non sono entrate, diciamo così, nel canone della Mishnah, ma sono comunque fonti parallele molto autorevoli. Non hanno il livello di autorevolezza della Mishnah, ma hanno un livello di autorevolezza molto molto importante. Allora bisogna ricordare una cosa: la Mishnah in realtà include anche ciò che è detto nelle Beraitot. La Baraita letteralmente vuol dire una cosa che è rimasta fuori. Bar vuol dire fuori in aramaico. Ok? Ma non tutti hanno la possibilità di vedere nella Mishnah ciò che è scritto nella Baraita, perché è nascosto nelle parole, nell'esattezza dei termini usati dalla Mishnah. Non è così chiaro. Si racconta nella Gemara, in un altro trattato, una storia di due grandi maestri successivi all'epoca della Mishnah, dell'epoca del Talmud, della prima generazione del Talmud, dopo Rabbi Yehuda Hanassi, redattore della Mishnah, che c'era una coppia di studio. Come sapete, il modo più tradizionale di studiare è in coppia, Chavruta, e uno si chiamava Rabbi Yochanan, che è considerato il maestro più importante del Talmud Yerushalmi, Talmud di Eretz Israel, e il suo compagno si chiamava Ilfa. E si diceva di Ilfa che lui può, qualsiasi baraita gli veniva proposta, lui riusciva a trovare la fonte di quella baraita nella Mishnah stessa. Potete immaginare, stiamo parlando solo poco tempo dopo la redazione della Mishnah, e già questa era una cosa estremamente difficile. E lui riusciva a farlo. C'è tutta una storia interessante dove si racconta che Rabbi Yochanan appunto rimase nel mondo dello studio, dell'insegnamento, divenne uno dei più grandi Chachamim, e Ilfa, pur essendo un grandissimo a livello di studio, comunque lasciò quel mondo della Yeshiva e entrò nel mondo degli affari. E si racconta che la gente diceva di Ilfa che, diciamo, ha perso il suo studio. Che allora lui ha fatto una mossa molto drammatica, è salito sull'albero di una nave e ha detto: potete propormi qualsiasi baraita, e se io non riuscissi a trovare la fonte nella Mishnah mi butto nel mare. Anni dopo che aveva già, diciamo così, lasciato lo studio a tempo pieno. Però evidentemente lo studio non l'aveva lasciato, perché lui era riuscito a dimostrare questa cosa. Cioè, in realtà, questa storia è molto interessante, illustra l'attaccamento dei nostri maestri, anche quelli che facevano altre cose per lavoro, che tra l'altro la maggior parte dei maestri facevano altre cose per lavoro, non vivevano dal loro studio. Questo è già un altro discorso, però in ogni caso tutto ciò che c'è nelle altre fonti dei Tanaim già c'è nella Mishnah. Però, È ovvio che ai nostri occhi non è sempre assolutamente facile trovarlo. E quindi la Gemara sfrutta moltissimo le Beraitot per chiarire la Mishnah o per chiarire i concetti esposti nella Mishnah, o aggiungendo dettagli, portando altre discussioni, allargando i discorsi che sono brevi nella Mishnah in una maniera più vasta. E questo ci aiuta molto ad analizzare quello che stiamo studiando nella Mishnah. Allora, ci sono le parole chiave che indicano che stiamo per citare una Baraita. Questa è una di quelle. Quando noi diciamo nel Talmud, Tanu Rabbanan, i maestri hanno insegnato, è una parola chiave per indicare che stiamo parlando, stiamo per citare una Baraita. Spesso possiamo riconoscere le parole della Baraita distinte dalle parole del Talmud stesso, perché nella versione originale del Talmud non ci sono i segni della citazione o la fine della frase, il puntino, la virgola. Finisce di citare e poi continua a parlare, però spesso riusciamo a distinguere semplicemente dalla lingua, perché la Baraita è in Lashon HaKodesh, è nella lingua della Mishnah, in ebraico. La Gemara, quando parla, normalmente parla in una lingua aramaica della Gemara, il gergo del Talmud. Allora già abbiamo questa possibilità. Allora introduciamo la Baraita. Tanu Rabbanan. Cosa dicono i maestri nella Baraita? Tanu Rabbanan. Riguardo a quanto è scritto nella Torah, Ve'ayu adivrei me'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha, cosa che la Baraita non cita per esteso il versetto, perché conosciamo il versetto. Cita solamente la parola che gli interessa citare da questo versetto, perché c'è una derashah legata a questa parola. E dice, la Baraita inizia dicendo, Ve'ayu, quanto è scritto nel versetto citato, Ve'ayu, e saranno queste parole, termine ve'ayu che devono essere in qualche maniera, insegna questa parola a noi, che le parole devono essere così come sono. Che vuol dire devono essere così come sono? Che non va cambiato l'ordine della recitazione delle parole. Sì? Ve'ayu, la parola ve'ayu del versetto ci insegna, dice la Baraita, se lo ikra le mafrea, che la persona non legga lo Shema a ritroso, al contrario, in ordine diverso. E poi la Baraita continua e dice: Yachol tehe kol ha-parashat tzericha kavanah. Tu avresti potuto pensare, Yachol vuol dire potevi, poteva, cioè si potrebbe pensare. Che cosa si potrebbe pensare? Che tutta la parashah, ovvero tutto il brano, tzricha richiede kavanah, l'intenzione, attenzione, quale intenzione stiamo parlando? Cioè la comprensione di quello che si sta dicendo, non l'intenzione di fare la mitzvah, la comprensione, intenzione qui si intende comprensione di quello che si sta dicendo. E che se forse se una persona ha letto il primo brano Shema ve'ahavta et Hashem Elokecha e non conosceva il significato di una delle parole non è uscito l'obbligo della mitzvah, questo potresti pensare, Talmud Lomar, anche questa è una parola chiave per dire il versetto ci insegna, dicendo Ha'el. A L che vuol dire queste parole. Cosa vuol dire queste parole? Ad kan, fino a qui. Fino a qui dove? Cioè dall'inizio di Shema. Fino a queste parole qui, allevavecha, ad kan, fino a qui, tzricha kavanah. La mitzvah richiede la comprensione delle parole. E quindi se ha letto senza la comprensione non esce l'obbligo. Però, continua la Baraita e dice, Mikan veilach. Da questo punto in poi, quindi da Alevavecha in poi, En tzericha kavana. La mitzvah non richiede, la lettura non richiede la comprensione delle parole lette. La Baraita conclude questa frase dicendo: chi è l'autore di questa opinione? Divrei Rabbi Eliezer. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer, uno dei più grandi maestri della Mishnah. Cosa abbiamo imparato finora in questa Braita? Due cose. La prima cosa è che la parola Vehayu indica e saranno, devono essere in una certa maniera queste parole, cioè nell'ordine corretto. Se li leggiamo in ordine diverso, cioè un versetto prima di un altro che in realtà lo dovrebbe seguire e tu lo fai precedere, non esci l'obbligo della mitzvah. Questa è la prima cosa che la Braita ha detto e su questo non c'era discussione. Sembra che tutti sono d'accordo con questa halakha. E si appoggia e si basa questa halakha sul fatto che è scritto Vehayu. Cioè devono essere così come sono. Poi la Braita introduce una seconda derasha, e cioè Vehayu adevarima elle alevaveha. Queste parole le devi leggere con il cuore, cioè con la comprensione. Kavanah intesa come comprensione. Queste parole, ma non le altre. Cioè la prima parte fino alle vaveha richiede più rigorosità, devi conoscere bene quello che stai dicendo per uscire l'obbligo della mitzvah, ma per le altre non devi lavorare così duro, anche se non conosci il senso delle parole, comunque esci l'obbligo della mitzvah. Questa è l'opinione di Rabbi Eliezer. Ovviamente non tutti sono d'accordo. La Baraita continua citando la prossima opinione. Amar lei, amar lo, Rabbi Akiva. Disse Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva con Rabbi Eliezer aveva un rapporto speciale perché era mezzo allievo e mezzo collega di Rabbi Eliezer. Disse Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer. Arehu Omer, ma egli dice, cioè egli il senso del versetto, la Torah dice anche Asher Anochi Metzavecha Hayom Alevavecha. Ve'avta et Hashem Elokecha, ame il Signore tuo Dio, chol vavcha v'chol nafshcha v'chol modecha. E queste parole, Asher Anochi Metzavecha Hayom, queste parole sono messe in rilievo da Rabbi Akiva, queste parole che io ti trasmetto o ti istruisco, ti comando oggi, oggi Hayom, parola chiave, Alevavecha. Visto che si usa il tempo presente, Rabbi Akiva dice tutto ciò che io ti sto comandando oggi, quindi da qui fino alla fine del brano, è tutto valido nel Alevavecha, è tutto incluso nella comprensione di quello che stai dicendo. Quindi secondo lui, Mikan, da qui, cioè da questo versetto, Atalamed, tu impari, Shekola Parashakula, che è tutta l'intera Parasha, Parasha abbiamo di nuovo inteso che cosa? Il primo brano di Ve'ahavta, Kulatzricha Kavanah, tutta questa richiede in realtà, secondo lui, una Kavanah, cioè una comprensione. Allora, di nuovo, Rabbi Eliezer limita queste parole alle Vavecha, devono avere intenzione, comprensione, fino al versetto di alle Vavecha, e poi anche se non c'è la non che non bisogna capire, però il senso è, anche se uno non capisce, comunque ha fatto la mitzvah. Rabbi Akiva dice, no, scusa, Asher Anochi Metzavecha Hayom Alevavecha, tutto quello che io ti istruisco in questo brano deve essere Alevavecha, cioè richiede la comprensione, no? Intero. Allora perché limitare? Perché c'è scritto Hayom. Hayom ci aiuta a non limitare. Sì, sì, non limitare. cioè la parola che... Ora io vi chiedo, perché invece Rabbi Eliezer ha sì limitato? Su cosa si è basato Rabbi Eliezer per sì limitare solo fino alle Vavecha? Guardate bene le parole di Rabbi Eliezer. Talmud Lomar. Guardate cosa è scritto nel Talmud. Talmud Lomar. Cosa c'è scritto poi? Ha-El. Cosa vuol dire Ha-El? Queste parole. Non sempre, non sempre. Non è sempre così. Oh, può essere una volta così, una volta no. Qui c'è una parola intera che indica qualcosa, che limita. Ha-El. Queste parole. E non le successive parole. C'è un senso. C'è un senso all'opinione. Perché le successive parole non entrano in questo... Perché periodo, quando io dico... È tutta la cosa che è composta. Ah, tu vedi come dice Rabbi Akiva. Invece Rabbi Eliezer dice, ed è assolutamente un modo di vedere accettato e legittimo nella derashah della Torah, cioè nel estrapolare dai versetti questi significati, che io dico una parola limitativa esclude altre cose. Quando io dico... Questo è così, vuol dire che quello non è così, nel senso più semplice della cosa. Allora Ha-El esclude altro. E anche Rabbi Akiva deve rispondere a questo problema. Non lo fa esplicitamente, però i maestri commentatori del Tosfot rispondono per lui. Cos'è Tosafot? Tosafot è il commento che letteralmente vuol dire aggiunta. Perché non è che commenta il Talmud, quanto aggiunge, aumenta elementi di la discussione, continua la discussione. Sì, va avanti, il Talmud ha fatto un'affermazione, è come se il Talmud facesse un'altra domanda e un'altra risposta, però non è il Talmud, è il Tosfot. Il Tosfot dice, cosa risponderebbe Rabbi Akiva? Scusa Rabbi Akiva, mica Rabbi Eliezer l'ha detto così, l'ha detto perché c'è scritto Ha-El, e Ha-El esclude le altre. Tu invece le vuoi includere? Va bene, ha il tuo senso perché è detto Hayom. Alle Vavecha, tutto ciò che ti comando oggi. Devi avere l'intenzione, cioè devi avere la comprensione, capire quello che stai dicendo. Va bene, però cosa ne fai di Ha-El? Quella Ha-El rimane lì. Come lo spieghi? Come lo spieghi quella Ha-El? Allora i Tosfot dicono... che secondo Rabbi Akiva, Ha-El ha lo stesso senso, cioè limita ed esclude qualcos'altro, però include tutto il primo brano, secondo lui. Ha-El per Rabbi Akiva include questo paragrafo, questo primo brano. Cioè quell'El significa appunto, cioè è quasi a rimarcare appunto. Questo brano, il secondo brano Vayayim Shamoa, il terzo brano Vayomer, lì non serve la comprensione, cioè anche se l'hai letto senza comprensione sei uscito obbligo della mitzvah. Perché? Perché Ha-El, questo è il brano in cui c'è scritto Alle Vavecha. Invece secondo Rabbi Eliezer questo Ha-El è ancora più limitativo, limita solo fino a quella frase Alle Vavecha. Allora secondo voi chi è più rigoroso in questo caso, Rabbi Eliezer o Rabbi Akiva? Perché? Perché conferma e accentua ancora di più il concetto di quello che si deve fare e come lo si deve fare. La domanda è chi è più rigoroso? È Eliezer. Allora, spiego la domanda. Scusate se non ho spiegato. La domanda è, quando ci si chiede nel Talmud chi è più rigoroso, il senso della domanda è chi rende più difficile la vita a noi persone che facciamo la mitzvah? Questa è la domanda. Rabbi Akiva in questo caso risulta più rigoroso perché lui richiede più comprensione rispetto a quanto ne richiede Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer richiede meno comprensione. Puoi capire, basta se capisci fino a Alle Vavecha. Rabbi Akiva dice no, non basta se capisci fino a Alle Vavecha. Devi capire fino a Ubisharecha, la fine del brano. Quindi è Rabbi Akiva. Meno male. Quindi Rabbi Akiva è più rigoroso. In questo caso Rabbi Akiva è più rigoroso. Ho fatto questa domanda per far capire come si misura rigorosità. Bisogna vedere il risultato della discussione. Scusa, Rab, Un attimo solo. Allora, sentiamo la domanda. Sì, William. Sì. Alle vaveha. Ok. È tutto il brano questo. Sì. Fino a Uvisharecha. Questo è il primo brano. Sì. Questi sono, come abbiamo visto già, tre brani distinti nella Torah. Uno ve Havta, uno ve Yaim Shamoa e uno ve Yomer. Sono tre brani diversi che abbiamo unito nella Mitzvah dello Shema. Allora, fino a qui ci siamo? Sì. Ok. No, volevo sapere l'Alaha. Abbiamo detto che l'altra volta avevamo parlato dell'Alaha soltanto nella questione della Kavanah, come uscire d'obbligo. E avevamo detto che era soltanto la prima regola, ma vale anche nella comprensione. Per ora. Da quello che ho capito io, sì. Allora, quando abbiamo parlato della Kavanah del primo verso, che qui ancora ci dobbiamo arrivare, no? Si parla della comprensione. Quindi tutte e due, cioè sia dell'uscire d'obbligo. Sì. Allora, tutte e due. Lo vedremo, lo vedremo. Prima era l'intenzione di avere... Prima, come abbiamo detto in generale, chi legge lo Shema senza l'intenzione... Quell'intenzione... Perché intendeva fare... No, quella intenzione... Era l'intenzione di uscire d'obbligo, sì, della mitzvah. E quello sul primo, sul primo verso. Quello non l'abbiamo detto. Dove l'abbiamo detto? In una lezione. Sì, però questo è successivamente a quello, no, che stiamo studiando adesso. Prima. Ah, ho capito. Non è prima. Ah, il prima era dei nostri, prima dei nostri era... tempi di lezione. Sì, sì. Esatto. Ok, l'altro... scusate, io per me prima e dopo è nella pagina. No, io pensavo il prima dei nostri tempi di lezione. Ok, ok, abbiamo esatto, chiarito. Sì, sì, no, no, certo, adesso stiamo rivedendo, approfondendo un po', no? Nella prima parte. Ok, ok, benissimo. Allora, è finita la citazione della Braita. Ripetiamo di nuovo. La Braita dice due halachot. Una halachà che dice vehayu. Vehayu, le parole devono essere così come sono, cioè non in un ordine inverso o diverso. Secondo insegnamento sul quale c'è appunto discussione è vehayu adevarim ha'ele, se serve capire quello che si dice mentre si recita lo Shema. Secondo Rabbi Eliezer è sufficiente capire il senso delle parole fino a alle vaveha, in quanto è detto vehayu adevarim ha'ele alle vaveha. Queste sono le parole che tu devi capire, perché alle vaveha vuol dire in questa ottica capire. E Rabbi Akiva dice no, asher anochi metzavecha hayom, è tutto il brano che va capito. E senza la comprensione di una parola nel primo brano non si fa la mitzvah, bisogna che si capisca ogni parola, almeno del primo brano. Questa è l'opinione di Rabbi Akiva. La Baraita stessa, che adesso abbiamo concluso di citare, non ha concluso come segue la halakha finale. Ora la Gemara cercherà di riempire questo vuoto, di capire come è la halakha. Serve la Kavanah, serve la comprensione fino alla fine del brano o solo fino alle Vaveha? Di fatto, com'è l'Alaha? Allora la Gemara cita, e qui vediamo bene che si tratta di una nuova citazione, perché apriamo con la parola Amar, disse, chi disse? Rabba Bar Bar Hana, Rabba Bar Bar, figlio di figlio, cioè nipote di Hana, Amar Rabbi Yochanan, disse questo Rabbà Bar Bar Hana a nome, disse che disse Rabbi Yochanan, cioè a nome di Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan che abbiamo citato prima nella storia, che vi ho raccontato, grande maestro. Cosa disse Rabbi Yochanan? Halakha che Rabbi Akiva. Affermazione. Affermazione. La halakha segue Rabbi Akiva. Ovvero che tutta la prima parasha richiede la comprensione delle parole, nella mancanza della quale non si esce l'obbligo della mitzvah. Questa è l'affermazione di Rabba Bar Bar Hana a nome di Rabbi Yochanan. Ora sembrava semplice, però la Gemara cita subito un'altra versione di questa affermazione che abbiamo appena fatto. Vediamo cosa dice la Gemara. Quanto ha detto Rabba Bar Bar Hanan, nome di Rabbi Hanan, che la Halakha segue Rabbi Akiva, c'è chi dice vuol dire qualcuno, altri maestri hanno ricevuto una tradizione diversa riguardo la sua affermazione, che in realtà era applicata ad un altro contesto e non a quel nostro contesto che noi abbiamo citato. Ok? Quindi la Gemara raccoglie le informazioni e poi le analizza e le elabora. Abbiamo citato la Braita. Riguardo la Braita abbiamo citato quanto ha detto Rabbi Yochanan, che l'Alaha seguiva Rabbi Akiva. Però la Gemara dice alt, abbiamo però un'altra fonte di informazione che prende questo stesso Rabbi Yochanan, ma applica quanto lui ha detto ad un'altra situazione, quindi in realtà non c'entra niente con la baraita che abbiamo citato. Vediamo di cosa si tratta. Ica vuol dire c'è, nel senso ci sono altri dematne che studiano, cioè applicano questo insegnamento là, a questo insegnamento citato di Rabbi Yochanan, su questo seguente, cioè su un'altra braita che adesso citiamo, e qui un'altra parola chiave che indica braita, che si citerà una braita. De vuol dire poiché, una parola che precede tante parole in aramaico, de, Tania vuol dire abbiamo studiato in una braita, come Tanura Banan, quindi va segnato, Tania è la parola chiave che indica la citazione di una braita. Tania abbiamo studiato in una baraita. Hakore et Shema, colui che legge lo Shema. Quindi è sempre il contesto dello Shema, e in realtà, come vedremo, è sempre il contesto della comprensione di quello che stiamo dicendo quando leggiamo lo Shema. Però è una baraita diversa. Ora vediamo cosa dice. Hakore et Shema, colui che legge lo Shema. Tzarich sheyechaven et libo. È necessario che comprenda col suo pensiero, col suo cuore, quanto sta dicendo. Ok? E questo, quando lui dice, deve avere la comprensione di quello che sta dicendo, non mette limite di quanto, di quanti brani deve capire. Tutto lo Shema deve avere la comprensione di tutto lo Shema, almeno i primi due brani. Diciamo che il terzo brano, come abbiamo già visto, è un'aggiunta, ok? Però sicuramente i primi due brani, per ciò che riguarda questa nostra discussione, diremo tutto lo Shema lui deve capire quello che sta dicendo. La Braita non ha messo limite, ha detto bisogna avere la comprensione. Anche in quella baraita c'era chi discuteva, però, e diceva Rabbi Acha Mishum Rabbi Yehuda Omer, un altro maestro dice Rabbi Acha, nome di Rabbi Yehuda, quindi siamo sempre citando la baraita, maestri della Mishnah, dice così Kevan Shekiven Libo. Vedete questo gioco di parole? Kevan Shekiven. Kevan vuol dire siccome. Shekiven, che ha avuto l'intenzione, cioè la comprensione. Visto che ha avuto l'intenzione Beperek Rishon, nel primo brano, se lui ha capito il senso del primo brano solamente, Shuv Eino Tzarich, non ha più bisogno. Che vuol dire non ha più bisogno? Vuol dire non è più necessaria la comprensione nei brani successivi. Non ha bisogno è inteso come dire se ha letto gli altri brani senza pensare al significato delle parole, non deve ritornare indietro, non ha bisogno, in Ozarich, non deve tornare indietro e ripeterlo, perché l'obbligo è già uscito, l'obbligo è solo il primo brano. L'obbligo di pensare, di capire quello che si sta dicendo, riguarda solamente il primo brano. Certo è bene se lo ha fatto anche negli altri brani, però se non l'ha fatto, lo Tzarich non deve ripetere. È uscito l'obbligo. Però uno nel tempo di pericolo che dice Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Già è uscito l'obbligo. Sì, se è nel tempo giusto. Non può dire giusto. Sì. Quindi questo vedremo anche questo. Confermate quello che ci hai detto prima, che la Lacha è quella, no? No. Allora la Baraita sta riprendendo da lì. No, è un'altra è una fonte parallela. Sì. Non si sta basando sull'altra fonte dove Rabbi Akiva e Rabbi Eliezer discutevano. Si mette un'altra una fonte parallela. Parte da quel, senza riferirsi e collegarsi, ma sta partendo da quel c'è da un nuovo premessa. C'è un nuovo ingrediente. Insomma, non lo so. Tu non lo so. No. E qui è saltato. Non abbiamo una conclusione ancora. Ma non conclusione. No. Scusa, ragazzi. Sì? Allora, un attimo solo. Sì? Mentre tu leggi Shema Israel e Avdeavta, sì? C'è lì l'obbligo e la kavanah di mettere i tfilim, di mettere i tzitzit. Ok. Sì, delle mitzvot, sì. Dunque, questo è il fulcro della kavanah, perché si può succedere che tu leggi lo Shema senza mettere i tfilim, se non c'è la possibilità? Anche questo è vero e anche questo lo approfondiremo più avanti, questo però, aspetto qui. Chi legge lo Shema senza mettere in atto quello che è scritto nello Shema? Un altro discorso che affronteremo anche quello. No, dico però c'è pure lo Shema Darvit. Vero, anche questo affronteremo. Allora, cosa abbiamo fatto? Attendere, prego. Abbiamo la prima braita dove Rabbi Eliezer e Rabbi Akiva discutono fino a dove c'è l'obbligo di tenere l'intenzione, cioè la comprensione delle parole dello Shema. Secondo Rabbi Eliezer fino al versetto Alevavecha, secondo Rabbi Akiva fino a Ubi Shearecha, alla fine del primo brano. Adesso abbiamo un'altra braita dove il Tanakama, questa è anche una parola chiave, Tanakama, cioè il primo Tana citato che è anonimo, quindi non abbiamo un nome, lo chiamiamo Tanakama, il primo Tana. Il Tanakama è dell'opinione che per tutto lo Shema serve la comprensione e se non c'è, non si esce l'obbligo. Mentre invece discute contro lui Rabbi Yehuda e dice è sufficiente l'intenzione per il primo brano, come nell'altra baraita diceva Rabbi Akiva. Anche se le loro opinioni sono, diciamo, a livello pratico uguali, ma sembra che arrivano da due direzioni molto diverse. Perché Rabbi Yehuda dice, anche se non hai tenuto in mente il significato degli altri brani, comunque esci l'obbligo. E in Ozarich non devi ripetere. Rabbi Yehuda basta il primo. Rabbi Yehuda, sto parlando del primo. Invece Rabbi Akiva non ha detto questo. Rabbi Akiva ha detto, serve solo lì. È diverso, c'è una sfumatura diversa tra Rabbi Akiva e Rabbi Yehuda, anche se in pratica è la stessa cosa, che secondo entrambi, Rabbi Akiva e Rabbi Yehuda, la halakha richiede la tua intenzione, cioè comprensione, di nuovo, solamente per il primo brano. Ora, in realtà Rabbi Yehuda ti dice tutto lo Shema, dice però... E sei saltato. Lui ti dice tutto. Se non hai però, avuto, se però... Non hai avuto la, se non l'hai fatto, comunque allora, basta il questa è la sfumatura, questo lo mettiamo in parentesi. Questo lo mettiamo tra parentesi. Se hai saltato, poi non... Bediavad. Bediavad, esattamente. Concludiamo il paragrafo. Su questa baraita, secondo la seconda tradizione che abbiamo ricevuto, Amar Rabba Bar Barchana Amar Rabbi Yochanan, Halakha che Rabbi Acha Shamar Mishum Rabbi Yehuda. Disse Rabba, figlio del figlio di Hana, nome di Rabbi Yochanan, che tra questi due maestri, il Tanakama e Rabbi Acha, nome di Rabbi Yehuda, chi è quello che la Halakha segue? Il secondo. E cioè che il primo brano è quello che necessita assolutamente di Kavanah, ma se non ci è stato sul secondo brano, non è necessario tornare indietro. Quindi la Gemara sta dicendo che secondo questa versione Rabbi Yochanan non ha detto che la Halakha segue Rabbi Akiva, ha detto che segue Rabbi Yehuda. E ci sono differenze tra Rabbi Akiva e Rabbi Yehuda. Anche se, come dicevo, all'atto pratico sembra che sia la stessa cosa, perché tutti e due richiedono che il primo brano sia recitato con la comprensione delle parole. Già tardi, vediamo se... Allora, ricapitolando cosa abbiamo fatto, abbiamo cercato di definire il senso di Kavanah a livello di comprensione delle parole e siamo rimasti con una quasi chiarezza, quasi per quella sfumatura, però una chiarezza che la halakha richiede una comprensione almeno del primo brano. Ok? Poi successivamente citeremo altre Beraitot ancora, o almeno un'altra Baraita, dove si approfondirà ancora l'aspetto della Kavanah, della comprensione nello Shema. Ok, concludiamo qui oggi. Ma questo Rabbi Yehuda è lo stesso che aveva...